Buongiorno alla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. Urlerò al governo, chiederò poteri speciali, così dice il sindaco di Roma Gianni Alemanno all'indomani dell'ennesimo incendio in un campo nomadi abusivo costato la vita a 4 bambini. Siamo andati a vedere questa mattina che succede, è andato per noi Andrea Viali, buongiorno. Sì, buongiorno Anna, io sono ancora qui, si stanno concludendo i rilievi della polizia scientifica, ancora al lavoro su quello che resta della baracca dove ieri sera, come dicevi, sono morti questi 4 piccoli bambini rom. L'insediamento è un insediamento veramente ridotto, un insediamento abusivo che si trova proprio a ridosso della via Appia Nuova. L'insediamento è stato sgomberato, è stato transennato dalla polizia municipale, in questo momento non è possibile accedervi. In giornata le 4 baracche che sono rimaste in piedi dopo l'incendio di ieri sera saranno abbattute con le ruspe. Qui stamattina è arrivato per un sopralluogo anche il prefetto Pecoraro, sentiamo cosa ha detto al termine. Ho voluto rendermi conto della situazione, ieri sera hanno lavorato i tecnici con l'autorità giudiziaria, stamattina ho voluto rendermi conto di quello che è successo. Sugli altri campi stiamo lavorando per i nuovi campi, sono in corso i lavori per un campo, per l'altro lo acquisisco proprio questa settimana, in modo da iniziare i lavori anche lì. Questo è il prefetto Pecoraro, in attesa di conoscere poi gli esiti dei rilievi della scientifica. Appare comunque quasi certo che a causare questo incendio sia stato un piccolo braciere che era utilizzato per il riscaldamento. Quando il rogo è divampato nella baracca non c'erano i genitori dei bambini, i genitori che sono stati interrogati stamattina in questura. La presenza di questo insediamento abusivo, lo ricordiamo, era stata segnalata già da qualche tempo, i nomadi dovevano essere trasferiti in un campo autorizzato, il sindaco di Roma Alemanno se l'è presa con la burocrazia che a suo giudizio ostacolerebbe questo tipo di operazioni e l'attuazione del piano nomadi predisposto dal Campidoglio, per questo ha chiesto poteri speciali per affrontare questa emergenza nomadi sulla quale invece, secondo l'opposizione, quanto accaduto dimostra che la politica di Alemanno è totalmente fallimentare. Per ora da qui è tutto. Grazie ad Andrea Viali. Emerge intanto dal vertice che negli stessi minuti è in corso in prefettura l'ipotesi di allestire delle tendopoli della protezione civile, dice il sindaco Alemanno, per sgombrare subito tutti i microcampi abusivi. Servono, dice il sindaco della capitale, 30 milioni di euro. Io saluto Luca Cefisi, autore di Bambini Ladri, questa settimana in libreria, esperto di immigrazione che ha lavorato proprio anche in Lazio. Grazie, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. A Roma 6.000 rom, alcuni vivono in campi regolari, altri in insediamenti spontanei, era questo il caso. L'obiettivo sembra ribadire sia il sindaco che il prefetto di sistemarli tutti, ma la polemica è sui tempi e sui modi dell'applicazione del cosiddetto piano rom della capitale. Perché? Quali sono i problemi? Ma innanzitutto osserviamo che 6 o 7.000 persone, quanto risulta dai vari censimenti, non è certo un'invasione di barbari per una grande metropoli e quindi stupisce perché da anni questa comunità si trova in queste condizioni di emarginazione e sembra che le amministrazioni siano impotenti di fronte a un problema che pure non è così enorme. Francamente la questione dei campi è la vera questione, i campi devono sparire perché sono luoghi di ghettizzazione e segregazione che perpetuano ovviamente l'emarginazione e quindi perpetuano l'illegalità. L'idea che si debba passare da un campo assolutamente fetente a un campo un po' più pettinato è un'idea davvero deludente. Per questo ci vogliono, sento dire adesso, 30 milioni, ma su via con molto meno si farebbero politiche sociali di integrazione, di casa, è questo di cui c'è bisogno davvero. Ecco, mi preoccupa che i soldi dei cittadini siano spesi per perpetuare questa segregazione e questa ghettizzazione. A Roma, non c'è solo a Roma il problema rom, ne abbiamo parlato molto nei mesi scorsi, anche per allora, altre città. Distinguiamo, insomma, i Rom non sono necessariamente un problema. Molte migliaia di Rom sono nostri concittadini italiani e vivono normalmente in dignità e legalità. Semmai avrebbero bisogno di più voce. Il problema è dove vivono, sono gli insediamenti. Il problema è una minoranza di poche migliaia, di Rom, soprattutto immigrati dai Balcani, che si trovano in una situazione, come dicevo prima, di ghettizzazione e che sopravvivono in qualche modo ai margini delle grandi metropoli, specialmente a Napoli, a Milano, a Roma. Allora, l'idea che è solo un problema di sicurezza, per cui bisogna inseguire queste famiglie Rom e sgomberarle, che significa spostati da questo ponte e vai a dormire sotto un altro ponte, e questa è l'idea sbagliata. Il perpetuare, cronicizzare questa precarietà è la vera ricetta dell'insicurezza e dell'illegalità garantita anche per il futuro. E grazie a Luca Cefisi, autore di Bambini Ladri, questa settimana in libreria. E da Roma andiamo a Milano, dove l'emergenza in queste ore è un'altra ed è l'aria, e rischia di costare caro alle tasche di tutti, perché non solo la seconda domenica a piedi non ha migliorato la qualità dell'aria, ma la concentrazione di polveri sottili registrata ieri dalle centraline in Lombardia è stata di 3 volte superiore al limite consentito di microgrammi per metro cubo, e ora scattano le multe. 35 giorni di aria satura di polveri sottili, con picchi che superano 3 volte i limiti consentiti dalla legge. Lo scherzo è finito, siamo tutti chiamati a muoverci verso la responsabilità di una vita non migliore, ma almeno umanamente sostenibile. Non bastano le domeniche a piedi, la città soffoca e rischia un'altra multa europea. Non si salva nessuno, le polveri sottili sono triplicate in via Senato, in città studi, ovunque. Che si fa? Ci sarà un vertice dei sindaci della pianura padana. Mercoledì. Milano dirà che o tutti bloccano il traffico o il capoluogo non fermerà più le auto. Se anche già borbottate, smettete di farlo, perché la posta in gioco è molto alta, e preparatevi a blocchi concordati e a targhe alterne. Ognuno di noi, come parte di una comunità, dovrebbe poi scegliere istintivamente, come sopravvivenza, di non usare l'auto. Intanto ci si augura che contemporaneamente ai rimedi su strada, le amministrazioni comunali stiano provvedendo ad abbassare i consumi di riscaldamento in scuole e uffici pubblici. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Processo per direttissima per i 2 arrestati ieri pomeriggio ad Arcore per gli incidenti con la polizia. Sono sotto processo per direttissima al Tribunale di Monza i 2 giovani arrestati ieri pomeriggio ad Arcore nel corso degli scontri con la polizia a margine della manifestazione indetta dal Popolo Viola per chiedere le dimissioni di Silvio Berlusconi. I 2, che farebbero riferimento agli ambienti antagonisti lombardi, devono rispondere di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Giacomo Sicurello, 23 anni, fa parte del Movimento 5 Stelle e del comitato No Expo di Desio, comune del Milanese. È figlio dell'ex candidato sindaco per l'Italia dei Valori. Simone Cavalcanti, 21 anni, è un blogger lodigiano noto in rete con lo pseudonimo Spillo 89. Ad avere la peggio negli scontri di ieri è stato un funzionario della polizia colpito alla testa da una bottiglia. Altri 5 agenti e un numero imprecisato di manifestanti sono rimasti feriti o contusi. La Digos sta analizzando i filmati per individuare eventuali altri responsabili. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A Roma intanto questa mattina è andata in scena una protesta scenografica al collo di oltre 150 statue, e sono stati appesi cartelli in cui c'è scritto «L'Italia non è Bunga Bunga». La richiesta di giudizio immediato per il premier Silvio Berlusconi, indagato a Milano per il caso Ruby, non verrà inoltrata oggi. La notizia arriva direttamente dal procuratore della Repubblica di Milano, Edmondo Bruti. Liberati, i PM starebbero svolgendo accertamenti anche sulla presenza di un'altra minorenne, la brasiliana Iris Berardi, alle feste di Arcore. A indagare intanto è anche Napoli, sarà interrogato nei prossimi giorni Fabrizio Corona, che ai giornali ha dichiarato che emissari di un settimanale sarebbero scesi a Napoli per comprare dalla malavita foto del premier. Naturalmente attorno a tutto questo c'è il dibattito politico. Elisabetta Fiorito. Sì, proprio così. Come annunciato nei messaggi delle settimane scorse, però, il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi vuole rilanciare l'attività di governo sul fronte economico. Il Consiglio dei Ministri convocato per mercoledì prossimo servirà soprattutto a questo. Si parte dalla riforma dell'articolo 41 sulla libertà di impresa, il piano casa e un decreto per la riforma degli incentivi delle attività economiche. Per il Sud invece si pensa a un piano di realizzazione di grandi opere come l'alta velocità ferroviaria, Bari, Napoli, Palermo e Messina, della Salerno-Reggio Calabria e il completamento della Olbia-Sassari. Un pacchetto di 80 miliardi di euro con sgravi fiscali per chi crea imprese nel sud. Per le piccole imprese poi si pensa ad uno snellimento degli aiuti, l'eliminazione di 30 leggi diversi e il riordine degli incentivi in automatici legati al finanziamento di programmi specifici destinati ai grandi progetti di ristrutturazione. Il piano casa poi prevede la possibilità di ampliamenti e il superamento delle regioni che mettono i paletti. Ma soprattutto si mira a sovvertire l'articolo 41 sulla libertà d'impresa. Per il ministro dello sviluppo economico Paolo Romani deve cambiare la mentalità, vale a dire che tutto è permesso tranne ciò che non è specificamente vietato. E per il momento qui da Roma è tutto, a voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito. A Palazzo Chigi andrà di ritorno dall'America anche Sergio Marchionne. Il governo ha annunciato che vuole chiarimenti sulle parole dell'amministratore delegato Fiat sul futuro del gruppo e soprattutto sul trasferimento in America di cui si è parlato nel fine settimana. È troppo tardi, è stato il commento questa mattina della segretaria della CGIL Susanna Camusso, ma cosa c'è di vero? Cosa già scritto negli accordi? Io saluto Marco Ferrando. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Marco, allora Marchionne dovrebbe andare a Palazzo Chigi, le prospettive e i chiarimenti quali potrebbero essere? Ma sì, il problema è provare a capire quale sarà l'assetto, la struttura di Fiat Chrysler. Fiat Chrysler che ormai vanno spedite verso una fusione che anche il ministro Sacconi, quindi parte del governo, sembra guardare con favore. Il problema appunto è capire dove sarà la testa una volta che Fiat Chrysler sarà un'azienda sola. Le possibilità naturalmente sono tante, è chiaro che un'azienda globalizzata ha bisogno di tanti centri decisionali, ma alla fine ce n'è uno che decide veramente. Il problema è capire se sarà Detroit, quindi più dal punto, diciamo, dal lato Chrysler, oppure Torino, quindi al Lingotto. Tutto questo era già scritto negli accordi, Marco? Ma qui è difficile capire, anche perché vediamo che Marchionne ha ritmi di lavoro e anche di, come dire, di sviluppo delle strategie molto veloci. Sicuramente quando un anno e mezzo fa è stato firmato il primo accordo c'era un'idea di spostare progressivamente il baricentro del gruppo verso gli Stati Uniti. All'epoca nessuno osò pensare in termini realistici a uno spostamento anche appunto dei centri decisionali completamente verso gli Stati Uniti. Certo è che anche con base all'evoluzione del mercato, che vede effettivamente Chrysler riprendersi molto rapidamente mentre Fiat un po' più in difficoltà, sicuramente questo è uno scenario oggi molto più possibile di un anno e mezzo fa. Grazie a Marco Ferrando. E c'è anche un altro capitolo in tutta questa storia. Lunedì prossimo il ministro delle attività produttive Paolo Romani incontrerà i leader di CGIL e CISL e UIR per discutere dello stabilimento Fiat di Termini Imerese. Lo stabilimento è già deciso, chiuderà alla fine del 2011, ma in corso c'è il vaglio delle proposte per il riutilizzo e la reindustrializzazione dell'area. E intanto, dicevamo, se Fiat va a rilento corre Chrysler, e la Chrysler targata Sergio Marchionne ha fatto segnare un record. I got a question for you. What does this city know about luxury? La prima volta di uno spot della lunghezza record, ben 2 minuti, e lo state sentendo al Super Bowl americano. La prima volta della superstar di Detroit Eminem come testimonial di uno spot pubblicitario, la prima volta di una sua canzone come colonna sonora di uno spot. È stata questa la presenza della Chrysler al Super Bowl 2011, la finalissima del campionato di football americano che conta su oltre 100 milioni di telespettatori nel mondo. La Chrysler di Sergio Marchionne ha presentato con appunto lo spot dei record la campagna pubblicitaria della sua nuova auto, la Chrysler 2000, con lo slogan Imported from Detroit. Le 13 e 18 minuti, le notizie di oggi. Sarà smantellato il campo rom dove sono morti a Roma 4 bambini. Il sindaco chiede poteri speciali per il prefetto e 30 milioni di euro. Nuovi accertamenti su un'altra minorenne ad Arcore. La richiesta dei magistrati per Berlusconi non arriverà oggi. Marchionne è convocato a Palazzo Chigi per chiarimenti sul futuro di Fiat. La CGIL è troppo tardi. A rischio il carnevale più famoso del mondo. In fiamme a Rio, la città della samba. Ma noi ripartiamo andando in Egitto, dove la città del Cairo tenta di tornare alla normalità con la riapertura di negozi e banche, ma dove la gente resta in piazza. E resta al Cairo anche Alberto Negri. Buongiorno Alberto. Buongiorno a voi. Come hai trovato la città questa mattina? Sta provando a ripartire, dicevamo, ma la gente non si muove dalla piazza. No, direi proprio di no. Anzi, io ho parlato adesso con un maggiore dell'esercito egiziano che tiene un posto di comando qui a uno dei checkpoint, che mi diceva che loro hanno l'ordine di non usare assolutamente la forza per sgomberare questa piazza, che non verrà riaperta neppure al traffico automobilistico nei prossimi giorni. Ieri addirittura, tra l'altro, qua dentro c'è stato persino un matrimonio. Ci sono delle misure di sicurezza piuttosto importanti, però, perché per esempio non è vero che impediscono di far entrare il cibo, come è stato detto in qualche notiziario precedente. La realtà è che ci sono stati degli allarmi perché qualcuno poteva portare dentro dei materiali per la fabbricazione di bombe come le Molotov. Ecco perché stavano facendo dei controlli molto attenti su ogni pacco che viene portato dentro. Ma questa è la situazione in piazza. Poi c'è la situazione politica, e la situazione politica è un po' come il tempo di oggi del Cairo, con una grande foschia che la fa somigliare a una città del nord, non alla capitale, a una grande capitale del Mediterraneo e dell'Africa. Cioè i fratelli musulmani, che ho appena sentito, ribadiscono che se Mubarak non se ne va subito, loro non continueranno i negoziati, anche se poi, con una solita ambiguità, lasciano aperto uno spiraglio. Mubarak potrebbe restare fisicamente in Egitto e allora lì potrebbe essere trovato un compromesso col vicepresidente Omar Suleiman. Grazie ad Alberto Negri dal Cairo. Molte le storie sentivamo ormai di questa rivoluzione che, come ormai accade, fanno il giro del mondo via web. Il Cairo. Un giovane disarmato mostra il petto in segno di sfida alle forze dell'ordine. La polizia gli spara, cade a terra sotto gli occhi increduli di chi ha ripreso tutto. Il video diventa simbolo della protesta egiziana e fa il giro del mondo. Sono circa 5.000 feriti e 300 ad oggi le vittime della rivolta contro il governo di Mubarak. Una rivolta, quella al Cairo, nata dalla rete che in rete sta trovando il suo memoriale. Una pagina web ricorda le vittime e raccoglie testimonianze. Si chiama Egypt Remember, è open source e gli autori credono che servirà per elencare i valorosi egiziani uccisi durante la lotta pacifica per la libertà. L'avevo detto che internet avrebbe cambiato l'Egitto. È scritto sul profilo Facebook di Vael Ghanim, manager Google scomparso il 27 gennaio. Il suo ultimo messaggio è: prego per il mio Egitto. Il governo sta pianificando un crimine contro il suo popolo. Siamo tutti pronti a morire. Al Jazeera denuncia: la violenza dei poliziotti è abituale al Cairo. Il volto simbolo è quello di Hamed Bassioni, 31 anni, insegnante. Il testamento in una foto. Una maschera antigas e una telecamera su un monitor che trasmette tumulti e sovraimpressa la parola ready. Islam Becker, 29 anni, laureato disoccupato, passo la notte in piazza, sono un uomo, aveva detto. Mohamed, 29 anni, difendeva i poveri. Hussein, 19, voleva diventare magistrato. Saif, 16, era lì per caso, ma i picchiatori, dice il fratello, uccidono indiscriminatamente. Vanessa Quinto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È cominciato a Londra il processo per accogliere o meno la richiesta di estradizione di Julian Assange in Svezia per le accuse mai diventate incriminazione formale di molestie sessuali. Intanto sono finiti sotto attacco degli hacker ieri siti del governo italiano. Chi sono? Sono i fratellini di Wikileaks, gli Anonimi, un gruppo di attivisti online che dopo aver preso di mira i siti di Visa e Mastercard ha colpito i siti web governativi di Yemen, Egitto, Tunisia. Ieri è stata la volta appunto dell'Italia e... Gli Anonimi promettono ci saranno altri attacchi. Esiste dal 2008 e opera in rete per difendere la libertà d'espressione. Si chiama Anonymous ed è forse il più vasto gruppo di attivisti online. Nulla di illecito e segreto, tutti possono dibattere in rete, unica regola l'anonimato. Tra le azioni dimostrative ci sono attacchi come quello che ieri ha preso di mira www.governo.it. L'effetto che si vuole ottenere è quello che accadrebbe se tutti gli italiani contemporaneamente andassero in automobile. Le strade andrebbero in tilt e sarebbe difficile dire che cosa c'è di illecito. Il motivo lo spiega Radio 24 uno degli anonimi che non ha partecipato all'attacco, contattato via Skype. Il governo sta prendendo provvedimenti, ad esempio la legge Romani, per limitare la libertà di diffusione di informazioni e di opinioni su internet e sul web in generale. Quindi noi abbiamo deciso semplicemente questa azione dimostrativa per far vedere che ci sono delle persone su internet che hanno a cuore la libertà di informazione e la libertà di parola. Il sito web del governo ha tuttavia retto all'attacco e ha accusato solo qualche rallentamento. I tecnici erano stati avvisati dalla Polizia delle Comunicazioni tramite il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la protezione delle infrastrutture critiche. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed ora la vicenda delle due gemelline svizzere sparite nel nulla dopo il suicidio del padre nel Foggiano il 3 febbraio scorso. Si continua a cercare in Puglia, in casolari, pozzi, dappertutto, ma le ricerche si stanno spostando fra Corsica e Sardegna. Aveva infatti comprato a Marsiglia 3 biglietti Mattias Schepp. Qui Alessia e Livia, 6 anni, sono state anche viste, mentre non ci sono riscontri che siano salite su quella nave che ha portato il papà in Corsica, né tantomeno che siano sbarcate sull'isola. Un caso questo che sta facendo impazzire le polizie di mezza Europa. Anche Telefono Azzurro ha attivato altri 11 paesi e invitato chiunque abbia informazioni utili a contattare il 116.000. Shantila Barbera di Telefono Azzurro. La richiesta è proprio di diffondere innanzitutto le informazioni sulla scomparsa e le foto, quindi nei vari siti di questi paesi saranno le foto delle gemelline Alessia e Livia e anche contatteranno proprio le autorità del posto per eventuali avvistamenti delle gemelle. Ecco, fino adesso sono arrivate segnalazioni, vi sono arrivate telefonate? Fino adesso no, ancora non sono arrivati avvistamenti alla nostra linea. E che voi sappiate neanche negli altri 11 paesi? No. Unico elemento che fa ben sperare, il ritrovamento ieri del testamento di Mattias, datato 20 gennaio. Lascia tutto alle due bambine. Forse aveva dunque deciso di non portarsele via con lui. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È a rischio il celebre carnevale brasiliano. Un incendio di proporzioni definite enormi sta distruggendo diversi laboratori nella cosiddetta città della Samba a Rio. Sono i magazzini dove si creano i carri allegorici e i costumi e manca ormai un mese al carnevale. È morto in un hotel della Costa del Sol, dove si trovava per una vacanza, il grande chitarrista irlandese Gary Moore, aveva 58 anni. Conosciuto soprattutto per la sua hit Still Got the Blues, una delle leggende musicali d'Irlanda, come lo ha definito Bob Geldof. Gary Moore, una delle personalità più geniali dell'hard rock e del blues, ha dedicato tutta la sua breve vita alla chitarra. La prima gliel'aveva regalata a soli 8 anni il padre, un organizzatore di concerti a Belfast, e da allora lo ha sempre incoraggiato ad amare la musica. Gary Moore se n'è andato ieri a soli 58 anni. Lo hanno trovato morto in una stanza d'albergo in Spagna dove stava trascorrendo una vacanza. Per i giornali inglesi forse la causa della morte è dovuto a un eccesso d'alcol, ma solo l'autopsia potrà dare certezze. Artista di grandi doti compositive e tecniche, Moore raccontò in un'intervista che il chitarrista che più lo aveva ispirato era stato Jeff Beck, ma anche Jimi Hendrix, John Mayall e soprattutto Peter Green, il fondatore dei Fleetwood Mac, al quale nel 1995 dedicò anche un album. Nella sua carriera ha collaborato con tante band ed artisti, dai Thin Lizzy a Greg Lake, da George Harrison a Ozzy Osbourne a B.B. King. Lo scorso luglio è stato invitato al Milano Jazz in Festival e ora quella sarà ricordata come la sua ultima esibizione italiana. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci vorranno almeno 6 giorni per una diagnosi attendibile sulle condizioni della mano destra di Robert Kubica, coinvolto ieri in un grave incidente ad Andorra. Le condizioni del pilota polacco sono stabili, ha riferito il chirurgo che l'ha operato, ma per essere certi che possa riutilizzare normalmente la mano ci vorrà almeno un anno. Il calcio, forse il risultato che più si poteva pronosticare per la panchina d'oro, decisa poco fa il premio per la stagione 2009-2010 per gli allenatori. La panchina d'oro è stata assegnata a Mourinho per i successi ottenuti con l'Inter. E intanto per il campionato di quest'anno tutto da rifare o quasi. Il Milan dopo due pareggi di seguito è sempre più infrenata, mentre gli inseguitori, guarda il caso proprio l'Inter insieme al Napoli, sono sempre più vicini. Nella quinta di ritorno i partenopei si portano a meno 3 battendo il Cesena, mentre i nerazzurri di Leonardo, superando la Roma in un match spettacolare per gol ed emozioni, si sono portati a meno 5 dal Milan. Ma l'Inter può ancora contare sul recupero con la Fiorentina. Leonardo, raggiante per la striscia positiva dei nerazzurri dopo la vittoria sulla Roma. Credo che siamo stati bravi a fare il quinto. Secondo me è vero che in quel momento lì siamo un po' distratti, abbiamo preso 2 gol, ma rientrare partite, creare occasioni, fare il quinto gol non era neanche facile. Quindi io sono felice. Se parlano di problemi, di equilibrio, di difese, di quello che manca, di bicchieri mezzo vuoto, parliamo di queste cose, ma io non ci riesco. Io sono troppo felice. Sono 8 vittorie, una in Coppa Italia ai rigori con Napoli e una sconfitta con l'Udinese. Vuol dire, non lo so di cosa parliamo. E situazione meno rosea per il Milan, braccato dicevamo dalle inseguitrici, pesano le assenze di Boateng, Pirlo e Ambrosini, nonostante Allegri disponga di un attacco di certo esplosivo. Il tecnico milanista parla così dopo il deludente pareggio col Genoa. Sappiamo che il campionato è lungo, ci sono molti punti, le inseguitrici cercheranno di prenderci, noi cercheremo di non farci prendere, e bisogna continuare su questa strada anche perché la squadra sta bene fisicamente, bisogna migliorare il secondo tempo di oggi. Ci fermiamo qui, Fabio Cantadori in regia, GR24 come sempre vi aspetta alle 14, una buona giornata da Anna Migliorati. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.